Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, sui mercati, tranquilli, non sta succedendo nulla, o meglio, qualche rialzo a cui anche oggi non partecipa Milano. Wall Street è chiusa per festività e quindi Parigi più 0,50, Francoforte più 0,90%, Londra più 0,70%. Milano, dicevo, è totalmente invariata, perdeva qualcosa addirittura oggi. Perché? Perché non ci sono ancora titoli che pesano comunque sull'indice in senso negativo. Mediobanca oggi perde il 2,80, l'automatica il 2%, ma ieri bene era andata. Autogrill meno 1,50, anche in questo caso ieri bene era andata. Mediaset meno 1,2 come Terna. Mediolanum meno 1, Impregilo meno 0,80 come Intesa e Fondiaria, meno 0,70 Generali e Telecom Italia. E chi va bene? Vanno bene titoli che pesano non tantissimo sull'indice, penso a Geox più 3,20, Luxottica più 2,30, Saipem più 2,2, Azimut più 2 come Prismian, Fiat più 1,60 come Ansaldo STS, 1,5% guadagna Tenaris e Bulgari, l'1,2 stima Microelectronics e Exor, l'1% rialzo delle CIR. E il resto del mercato come va? Ma l'oro è sempre lì a 1370. L'euro, ripetiamo, è inutile dire che l'euro è debole, è una grandissima cavolata. L'euro ha perso l'altro ieri molto in un singolo giorno, ma è passato da quota 1,39, 1,38,9 a 1,33, 1,34. Notevole il calo, ma non si può dire che sia debole. Se immaginiamo infatti un rapporto di parità 1-1 euro-dollaro, siamo ancora un 33% in più rispetto al dollaro, quindi è un euro forte. Chi scrive o dice il contrario, con massima tranquillità, non capisce nulla, nel senso che se no poi non si riesce a giustificare perché parliamo di euro forte quando va a 1,37, 1,38, sembriamo dei pazzi. E non è detto che questo lo escluda. Comunque, altri temi oggi di cui parleremo subito: delle paghe, degli stipendi degli italiani. Non vi preoccupate, non torniamo sulla tariffa minima degli avvocati, quello abbiamo già capito che è un argomento che non si può toccare. No, parliamo invece di come si muovono le retribuzioni degli italiani. Perché questo? Perché tra poco uscirà il nuovo rapporto di ODM Associati, ma da più parti ci sono arrivate segnalazioni di manager. Attenzione, quando parliamo dei manager non pensiamo sempre a Marchionne o a Bernabeu, ai grandi manager pagati molto. Manager vuol dire dirigenti d'azienda, ce ne sono decine di migliaia in questo paese, che in alcuni casi sono a spasso, perché la ristrutturazione aziendale, come si chiama con un gergo molto eufemistico, cioè i licenziamenti, hanno coinvolto anche i dirigenti, anche soprattutto i dirigenti che sono più licenziabili per contratto, diciamo, rispetto agli impiegati e ai quadri, e quindi ce ne sono molti a spasso con difficoltà anche a trovare lavoro. Si stanno abbassando anche i salari offerti e ci interessa capire come si muove tutto il mondo di quelli che sono i dirigenti d'azienda. E ripeto, non cadiamo nell'errore subito di identificarli con i top managers dai bonus milionari. Parleremo comunque anche degli stipendi di quadri, impiegati e operai. Poi, come sempre, i mercati finanziari di cui già vi accennavo. Avremo anche un piccolo approfondimento sul mercato del lavoro. Job Orienta oggi ha inaugurato i battenti, infatti, alla fiera di Verona. Ancora la Germania, adesso vi daremo alcune anticipazioni. Angela Merkel oggi è intervenuta sull'euro. C'è chi dice ha cambiato rotta, cercheremo di capirlo nella seconda ora del programma. E poi la spesa degli italiani, se ce la facciamo, i regali degli italiani sotto Natale. Oggi prima indagine della Confcommercio, vi anticipo che c'è un leggero calo anche rispetto al 2009, che già fu un anno di forte calo, ma il calo quest'anno è leggero, ma c'è, e soprattutto si spenderà più in alimentari e in tecnologia sofisticata, iPod, iPad, che in vestiti, scarpe, abbigliamento sportivo e tecnologia più tradizionale. 349 238 6666 per i vostri SMS. E allora rapidamente le notizie in breve. Petrolio, neve calo, $83,6 al barile. Come va il traffico aereo invece? Non è una domanda da poco conto, lo spieghiamo spesso, ci sono dei settori che ci aiutano a capire come si sta riprendendo l'economia. Il primo su tutti i consumi elettrici, poi il prezzo del nolo per i cargo, il Baltic Index e anche i voli aerei sono un indicatore abbastanza efficace della ripresa o della recessione economica. Allora, la domanda è salita anche ai livelli precedenti la crisi, più 10% a ottobre il traffico aereo rispetto a un anno fa e siamo appunto a un 10% in più rispetto al 2007. Questo però, attenzione, riguarda tutto il traffico aereo e sappiamo che come per il nodo delle merci la ripresa dei prezzi, degli indici e quindi anche degli indicatori è dovuta soprattutto alla parte asiatica del mondo, al traffico merci, al traffico aereo verso l'Asia, anche un po' verso gli Stati Uniti. Poco, o molto poco, contribuisce l'Europa. Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre, veniamo all'Italia in questo caso, rischi di finire sotto processo a Roma con l'accusa di agiotaggio, quindi turbativa anche di mercato, per aver diffuso nel 2007 informazioni false e fuorvianti nella fase di privatizzazione dell'Alitalia. Il rinvio a giudizio lo ha chiesto la procura di Roma. Baldassarre a suo tempo si era presentato come capofila di una cordata per acquistare la compagnia di bandiera. Ancora, l'economia internazionale. La notizia natale di ieri sera, ieri notte, i lavoratori americani continuano a faticare per uscire dalla crisi, ma lo stesso non vale per le aziende americane. Perché? Perché il terzo trimestre che si è appena chiuso è stato il miglior trimestre della storia, lo ha riportato il New York Times, citando il Dipartimento del Commercio. Insomma, terzo trimestre record per profitti. Profitti totale, pensate, nel terzo trimestre per 1.695 miliardi di dollari. Come si spiega questa cosa? Con licenziamenti. Le aziende hanno licenziato, hanno ridotto l'organico, quindi tornano a guadagnare, guadagnano più anche di prima, fanno di più con meno. E poi col fatto che una buona fetta degli utili dei gruppi americani, delle aziende americane, viene realizzata all'estero e li ripeto, c'è una parte del mondo che cresce tanto, consuma i prodotti e ha ragione oggi su Corriere della Sera Dario Di Vico a dire che anche noi dobbiamo stare attenti a non perdere il treno dell'export, mentre la politica di casa nostra si occupa di tutto tranne che di mettere a posto le varie sorelle che rappresentano l'Italia all'estero, ICE, SACE, consolati, camere di commercio. Vabbè, andiamo avanti. L'euro, dicevamo, è arrivato fino a 1,32, poi è ripreso 1,33. Non mi sembra in questo caso una gran notizia. Come vanno i tassi di interesse che devono applicare l'economia a rischio in Europa per farsi finanziare il debito? Aumenta la differenza con quello tedesco, che è il riferimento. Sale al 6,4% in Portogallo, al 4,6% in Spagna, al 2,5% in Grecia. Scusatemi, al 2,5% in Spagna e la Grecia al 9,3%, l'Italia all'1,7%. La differenza più sensibile, non tanto come valore ma come aumento, è quella che si è registrata in Spagna. Pensate che il 2,5% di differenza tra quanto rende un bot tedesco e quanto rende un bot spagnolo non si era mai registrata da quando la Spagna è entrata nell'euro. Allora, vedi che è già arrivato il primo messaggio. Licenziano gli operai e gli impiegati e tu ti preoccupi dei dirigenti. Caro Gianni, intanto gli operai hanno la cassa integrazione? Gli impiegati possono essere licenziati? Sì, certo che possono essere licenziati con ristrutturazioni aziendali, e anche lì esiste la cassa integrazione. I dirigenti sono licenziabili tout court, è il loro contratto, guadagnano di più e sono anche licenziabili. Dopodiché non ci occuperemo solo dei dirigenti, anche dei dirigenti, anche dei quadri, degli impiegati, degli operai. Ma per favore, non facciamo la lotta di classe via SMS. Ancora, torniamo alla politica europea. Angela Merkel, dicevo, oggi ha detto: l'euro è forte, non vi sarà bisogno di nessuna ristrutturazione del debito, quindi salvataggio, detto in papale, salvataggio di alcuni paesi europei. Ripeto, è sembrata un'Angela Merkel più cauta, più rassicurante rispetto a quella di due giorni fa, cercheremo di capirlo dopo. E ha detto anche che per mantenere un euro forte siamo pronti ad un'azione solidale. Io qui però non capisco veramente più niente, cioè è come se l'euro fosse debole anche per la Merkel. Allora, mettiamoci d'accordo che l'euro a 1,34, 1,35 è un euro debole, poi però lo spiegate alle imprese tedesche e italiane o spagnole, francesi che devono esportare, che un euro che vale 30% in più del dollaro in parità è un euro debole, eh? Allora, chiede un ascoltatore quindi se il Sole 24 Ore licenziasse Barisoni aumenterebbe gli utili. Sì, ridurrebbe le perdite, sicuramente. Allora, quanto sono esposte le banche tedesche nei confronti dell'Irlanda? 25 miliardi, l'ho detto oggi il vicepresidente della Bundesbank, Zeitler. Le banche europee nel frattempo sono quanto a rischio di insolvenza misurato sui famosi CDS, su quanto paghi di premio assicurativo per assicurarti rispetto all'eventuale crack di una banca. I CDS sono i massimi da 5 mesi e poi annunciano nuovi stress test nel 2011, forse a febbraio. Io ora segnalo che e lo cercheremo più avanti, il direttore generale di Confindustria Gianpaolo Galli ha detto: insomma, le banche irlandesi erano molto prudenti fino a pochi anni fa, negli ultimi anni hanno acquisito moltissimi rischi, il credito interbancario è cresciuto in Irlanda 10 volte il PIL, ma qualcuno ci dovrà spiegare perché quando furono fatti, vi ricordate, inizio anno, gli stress test per le banche europee, tra cui anche quelle irlandesi, nulla è emerso. Allora, sembrano un po' come i test o le selezioni fatte per gli avvocati a Reggio Calabria, tema d'attualità, che oggi, insomma, sono serviti a qualcosa o non sono serviti? Che farne di nuovi nel 2011, fatti così alla carlona, forse si può anche farne a meno, se poi dobbiamo scoprire che le banche irlandesi in realtà sono un pozzo senza fine. Ancora stabili prospettive per quello che riguarda Moody's sull'Italia, ma di altre notizie che riguardano l'Italia parleremo più avanti. Adesso vorrei partire con il primo tema, parleremo anche del piano per il Sud, lo faremo nella seconda ora, anzi facciamo ascoltare una cosa della Marcegaglia sugli aiuti automatici per le imprese, nel senso che come il nostro Gerry vi ha già ricordato, c'è un documento che prevede l'utilizzo fino a 75-80 miliardi per il Sud. La Camusso, CGL ha detto bisogna vedere, in realtà le risorse annunciate sono molte, ma bisogna capire concretamente come sono organizzate. Emma Marcegaglia ha detto bene il documento del governo e anche la cabina di regia, importanti gli aiuti automatici per le imprese, ma poi ha annunciato anche che per festeggiare i 100 anni della Confindustria vi sarà un progetto destinato a 100 ragazzi selezionati tra 7.000 laureati. Ascoltiamo questo passaggio. abbiamo deciso di investire per dare la possibilità a 100 ragazzi di avere un lavoro per 12 mesi all'interno del sistema Confindustria presso le imprese, un percorso di formazione per far conoscere meglio il sistema industriale italiano ai giovani, e per le imprese è un'opportunità di avere ragazzi molto preparati, molto bravi all'interno appunto del nostro sistema imprenditoriale. Allora, parliamo di stipendi, parliamo di quelli dei senatori che si sono tagliati 1.000 euro, si sono ridotti infatti le competenze accessorie, hanno bloccato l'adeguamento automatico delle retribuzioni ai dipendenti, trattenute del 5% sulle retribuzioni sopra i 90.000 euro e del 10% per quelle superiori ai 150.000 euro. Queste le decisioni adottate oggi dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica per rendere operative le misure deliberate il 29 luglio scorso e grazie alle quali sono previsti risparmi per 35 milioni di euro. 1.000 euro deve essere un calcolo comunque di taglio, però insomma è interessante che le decisioni furono adottate il 29 luglio, però diciamo l'operatività arriva a fine novembre, per carità. Un po' come certi ritardi nei pagamenti dei fornitori. Va bene. Primo tema, 349-238-6666, per i vostri sms, come si muove il mondo delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, o perlomeno da chi riceve una busta paga, anche i manager, anche i dirigenti hanno un contratto su cui viene applicato la tassazione, per cui li trattiamo alla stregua di quadri, impiegati ed operai. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, 80.000 sono i dirigenti italiani in servizio, vogliamo considerarli tutti quanti dei super manager? No, l'età media è 47 anni contro i 41 dell'Irlanda, i 43 del Belgio, i 44 della Francia. Pochine, ma questo è purtroppo una costante in questo paese, le donne, solo il 12% del totale, ci supera la Germania, la Gran Bretagna, la Francia, ma anche la Grecia ci supera, ha più donne dell'Italia, e la Turchia 22% in più. Poi non dite che i turchi ce l'hanno con le donne, siamo noi ad avercela con le donne, quantomeno con le donne manager. Nei consigli di amministrazione italiani il 3% sono donne contro una media europea dell'11%, uno scandalo. Ancora i licenziamenti, visto che volete il sangue. Anche i manager piangono, per parafrasare una famosa soap opera, perché nei primi sei mesi del 2010 le aziende private hanno aperto 4.800 licenziamenti di dirigenti, 4.800 contro i 12 che vanno a sommarsi ai 12.000 già operati nel 2009 e ai 10.000 del 2008. Allora, ringrazio gli ospiti che ci hanno raggiunto in collegamento. Lorenzo Guerriero, presidente di Manager Italia, che è l'associazione che raggruppa dirigenti quadri del terziario, 35.000 associati. Buonasera. Buonasera. Grazie anche al presidente di Federmanager, Giorgio Ambrogioni. Anche qui sono dirigenti soprattutto del settore industriale e manifatturiero, quindi non i servizi. 180.000 tra quelli in attivo e quelli in pensione. Buonasera anche a lei. Vi chiederei di alzare un po' più la voce perché vi sentiamo bassi, e grazie anche a una voce nota a questo programma, Mario Bavassori, che è professore ma soprattutto presiede ODM, che è la società che fa le indagini cicliche sulle retribuzioni nel paese e sta per pubblicarne, se non ricordo male. Buonasera Bavassori, intanto. Buonasera a metà dicembre pubblicherete uno studio su quanto guadagnano i vertici delle aziende quotate in borsa? Esatto, il 15 dicembre esattamente. 15. Abbiamo esaminato circa 2.000 profili remunerativi dei consigli di amministrazione e ci sono delle interessanti sorprese che purtroppo non posso anticipare. Lì sì parliamo di super manager. Dai, come... Mi dica solo una cosa, ma sono calate o scese? No, sono, si sono fermate anche loro, anche loro sono rimasti un po' fermi, hanno cambiato un po' il mix, c'è qualche cosa di interessante rispetto alle stock option, nel senso che anche in quel caso non è stato utilizzato questa leva in questi ultimi due anni. E invece è interessante un elemento riguardante la parte variabile, che noi ci lamentiamo del fatto che i nostri dirigenti, i nostri quadri sono pochi a utilizzare la parte variabile, circa l'11-12% l'incidenza della parte variabile sul fisso. Per quanto riguarda i dirigenti, gli alti dirigenti, la parte variabile è scesa un po', è il 35%. I percettori sono 3 su 10, diciamo, solo che questi percepiscono una quantità di denari impressionante, vero? Ma questo no, è perché noi parliamo sempre dei top manager americani delle banche d'affari, lì perché avevano delle grosse responsabilità nell'aver creato il disastro attuale, però non è che da noi proprio pane e acqua. Male, non c'è male, c'è da dire anche però sono circa 4.000 il top management delle aziende quotate in borsa in Italia, forse possiamo aggiungerne altri 6.000 di aziende non quotate, quindi parliamo di 10-15.000 profili remunerativi. Il problema è la grande massa di dirigenti, quadri, impiegati, operai che fanno il nostro sistema. Cioè, voglio dire, c'è manager e super manager, no? Come c'è man e superman, tutto terribile, perché insomma, in un caso hai questi bonus milionari, poi vengono pubblicati, devo dire, sui giornali, niente di nuovo. Ormai, tutte diciamo che i sistemi, gli organi di controllo e di vigilanza. Ma sì, no, ma è tutto legale, così come erano legali, va detto, anche tutti i bonus che si erano distribuiti a botte di decine di milioni di dollari i manager americani, nulla di illegale. Poi sui principi possiamo invece ragionare, ecco, se debbano pagare tutti un poco, ma tutti, oppure solo alcuni. Quelli sono i super manager, ne parliamo con lei a metà dicembre. Adesso invece, dopo il meteo, vorrei parlare di come si muovono le paghe dei dirigenti, che sono persone molto molto più umane e terrene, e i cui licenziamenti abbiamo appena ricordato, sono impressionanti le cifre, siamo quasi a 20.000 dirigenti licenziati, che poi avranno trovato il lavoro alcuni di questi, per carità, ma insomma sempre il licenziamento devi affrontare in questi due anni. Vavassori, prima del meteo mi dice come sono mosse, intanto così non ci tiene sulle spine, le retribuzioni, dirigenti, quadri, impiegati, operai? Non si sono mosse quelli dei dirigenti e quelli degli operai, quindi le parti estreme, si sono mosse un po' quelli dei quadri e degli impiegati. Si sono mosse un po', nel senso verso l'alto, no? Nel senso di tre punti e mezzo, cioè zero. La variazione è 2010 su 2009, giusto? Sì, esatto, sono i primi 9 mesi del 2010 rispetto ai primi 9 mesi del 2009. Ok, quindi zero i dirigenti, zero gli operai come variazione, e i quadri degli impiegati invece? Tutti gli impiegati. Quanto? Più 3,5 i quadri, 3,8 gli impiegati. E su quanto ampio è il vostro campione? Questi dati sono riferiti a circa 90.000 osservazioni. Ok, 90.000, quindi è un buon campione. Sì. Meteo, pubblicità, poi sentiamo anche le diverse fotografie che scatteranno i manager dei servizi e i manager invece dell'industria. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, abbiamo capito che si sono mossi gli stipendi dei manager, degli impiegati, dei quadri, ma non dei manager e degli operai, se ho ben capito, Vavassori. Adesso arriviamo anche ai servizi e imprese, ma Vavassori, le vostre prospettive per il 2011 come sono? Ma noi ci aspettiamo un po' più di dinamismo, soprattutto per la parte variabile, che curiosamente è ancora un po' sottotono. Voglio dire, avevamo visto nel 2009 un incremento della parte variabile, quindi un ricorso a questa forma di retribuzione, era cresciuto di circa un punto e mezzo, soprattutto per i dirigenti, ma anche per i quadri e per gli impiegati. Oggi siamo ritornati al livello precedente, al livello del 2008. Io mi aspetto, penso che questo dipenda un po' dal periodo della rilevazione, perché poi questi sistemi si vedono soprattutto nella parte finale dell'anno o nella parte iniziale. Quindi noi abbiamo scontato quello che avverrà. Io mi auguro che nei prossimi mesi le aziende utilizzino molto di più questi sistemi, perché questo è il modo per agganciare anche le persone, per tenerle, certo, per tenerle allora motivate, sentiamo chi rappresenta i manager, i dirigenti delle aziende. Presidente Guerriero, vi ritrovate con questo dato, cioè stipendi fermi nei dirigenti normali, non nei super manager che entrano nell'empireo di chi guadagna milioni, si è abbassata complessivamente invece l'offerta, quindi la crisi, i licenziamenti hanno portato anche un abbassamento degli stipendi offerti? Ma guardi Marisone, effettivamente ci riconosciamo almeno parzialmente, voglio dire, io di super manager non parlo, non li conosco, io conosco la realtà dei nostri associati. I nostri associati sono quelli che guadagnano 100.000 euro all'anno, questo Vavassori potrà, credo, tranquillamente confermarglielo. Gli stipendi sono pressoché fermi, la parte variabile non decolla, ma dal mio punto di vista non decolla perché lo Stato non fa niente per farla decollare. Si è parlato molto di incentivazione del variabile e poi hanno fissato a 30.000 euro la parte variabile che può essere soggetta a decontribuzione. Ora 30.000 euro non è neanche la metà dello stipendio di un quadro, lei capisce. Quindi la situazione da noi è questa, 100.000 euro, 104 per l'esattezza, dice Vavassori, piuttosto statica, piuttosto ferma, parecchia gente a casa. I numeri che lei ha dato sono assolutamente corretti, per quanto ci riguarda sono circa il 20-25% i dirigenti del terziario che sono stati estromessi dal mondo del lavoro. 20-25%? Cioè uno su quattro, uno su cinque? Uno su quattro, uno su cinque, sì, esatto. D'altra parte il rapporto fra noi e i dirigenti rappresentati dal mio vecchio amico Ambrogioni, che saluto, sono più o meno diciamo uno a due, poi ci sono i dirigenti del credito, poi ci sono i dirigenti delle assicurazioni per completare il panorama. Quindi sui vostri 35.000 associati, uno su quattro, uno su cinque, quindi insomma andiamo su proporzioni alte, siamo a 7.000 praticamente, ha perso il lavoro? No, dicevo uno su quattro, uno su cinque dei numeri che lei ha citato, cioè dei 10.000 espulsi. Ah, ecco, 2008, no, perché mi stavo preoccupando. Dei 12.000, no, io mi sarei sparato, più che preoccuparmi se avessi una moria di questo genere nella mia categoria. Sono sempre numeri importanti, perché stiamo comunque parlando no, per carità, di migliaia, ma sarebbe stata un'ecatombe espulse dal sistema. Ecco, quindi mi diceva quanti non riescono di quelli dei 10.000 espulsi, sì, l'anno scorso, quanti non 12.000 per la precisione l'anno scorso, sì. E già siamo a 5.000 nei primi sei mesi di quest'anno, quindi arriveremo a 10.000 quest'anno, sì. Quanti non riescono poi a reinserirsi? 70% secondo il nostro osservatorio, che è un osservatorio abbastanza attento, il 70% non riesce a rientrare in azienda e si deve reinventare, molti si trasformano in autoimprenditori, qualcheduno accetta un passo indietro e rientra in azienda come quadro, e qualcheduno continua a cercare nella speranza di risolvere il suo problema. Noi gli diamo una mano, noi abbiamo un centro di formazione che è attivo da 16 anni a questa parte, che dà anche ottimi risultati da molti punti di vista. L'anno scorso, assieme a Confcommercio, che è la nostra controparte datoriale, abbiamo stanziato 8 milioni di euro per Per fare formazione. Percorsi mirati per gli ultra cinquantenni che hanno perso il posto. Che sono la categoria più delicata, il CFMT si chiama il vostro centro. CFMT, sì. Bravissimo. Allora, Ambrogioni, vorrei capire se anche per lei si raffrontano i dati, tornano i dati di Vavassori sugli stipendi, e anche da voi, e anche voi avete questo problema del 70% dei manager, di quelli, tra quelli che perdono il lavoro, che non riescono a poi... Beh, intanto mi faccia cambiare i saluti a volentieri. Poi detto questo, una battuta rapidissima che si rifà al suo esordio dell'argomento. Noi abbiamo incaricato il professor Mannheimer qualche mese fa di condurre un'indagine sulla popolazione italiana per capire il giudizio che la gente dà di noi. Bene, siamo stati promossi con un bel 7,5. Bene. Nel senso che la gente finalmente ha capito, al di là delle dietologie, di aspetti un po' così caricaturali, che il dirigente d'azienda, il bravo dirigente, è una risorsa per il paese, oltre che per le aziende. Certo. Quindi questo dobbiamo averlo chiaro. Come dobbiamo aver chiaro che noi siamo lavoratori dipendenti, esatto, che sulle nostre retribuzioni paghiamo le imposte fino all'ultimo centesimo. Ecco, allora mi faccio dire una cosa su questo, visto che alcuni ascoltatori dicono: ma come, 100.000 euro è la media di lorda di un manager? Sì. E dice: ma come mai non trovano i conti con la denuncia dei redditi? No, è un po' diverso, attenzione. Quando noi diciamo che solo il 2% degli italiani, 2,6%, dichiara di guadagnare 100.000 euro o più, sono inclusi anche questi 80.000 manager che hanno la busta paga, diciamola così, per cui non possono evadere. Per cui figuratevi che, e non lo dico col massimo rispetto per il lavoro autonomo, che se leviamo la quota di chi ha 100.000 più euro di reddito lordi su cui c'è il prelievo alla fonte, quanti pochi sono i lavoratori autonomi che dichiarano più di 100.000 euro, arriviamo a qualche decina di migliaia. Chiusa la parentesi, mi dica come va l'occupazione e il ricollocamento. No, mi piace un'ultima battuta. Gli ultimi dati dicono che soltanto in Italia soltanto 400.000 contribuenti dichiarano più di 100.000 euro. I dirigenti di azienda pubblici e privati non sono 80.000, sono circa 150-160.000, quindi siamo la stragrande maggioranza di questi contribuenti perfetti, questo va detto con grande chiarezza. Vedendo alle retribuzioni, nell'industria, poiché ci sono molte aziende multinazionali, la retribuzione media annua lorda è un po' più alta del commercio, siamo intorno ai 120.000 euro, compresa la parte variabile, che può esserci come non può esserci, ed è legata alle performance. Si chiama variabile per questo. Individuali e o aziendali. Questa è la categoria che noi rappresentiamo, che ha un unico privilegio. Di rischiare il posto tutti i giorni. No, guardi, io sono d'accordo con lei, però se posso dare un consiglio da comunicatore, non perdiamo troppo tempo a scusarci, perché io ve l'ho già detto che il tema c'è tutto, quindi scusate, non petite, andiamo avanti sui temi, perché io devo poi fare la borsa, adesso ho il traffico, vorrei poi capire come si muovono i manager, qual è il tasso di disoccupazione, ma soprattutto di rimpiego nelle persone che fanno, i dirigenti nel settore industriale. Dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. 17:47 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, arriviamo alla borsa, dopodiché ragazzi, è settimane che ci occupiamo di borsa con quello che è successo sui mercati più deboli dell'Europa. Se anche oggi Milano fa 0,02, oltre che essere un prefisso telefonico, non so cosa sia. Adesso ci arriviamo comunque. Invece vorrei concludere questo approfondimento dedicato ai dirigenti d'azienda. Forse se li chiamiamo dirigenti è più chiaro a tutti che non stiamo parlando di degli happy few, dei pochi privilegiati, ma di gente che, ripeto, sui tassi di disoccupazione purtroppo sono in linea e anche più alti di quelli che hanno colpito l'inquadramento dei quadri, degli impiegati e degli operai. Ambrogioni, quanti hanno perso il posto di lavoro, si sono abbassate i salari offerti e quanto è difficile poi, soprattutto per chi ha più di 50 anni, ritrovare il lavoro? Anni e mezzo nel settore che io rappresento, nel settore industriale, abbiamo perso il 10% dei posti di lavoro manageriali, dirigenziali. Questo in maniera uniforme in tutte le aziende, grandi, medie e piccole. Le retribuzioni mediamente, come ho detto, sono abbastanza ferme, concordo con quanto dice Vavassori. Pronto? Sì, sì, prego. Per quanto riguarda le possibilità di ricollocazione, sono molto difficili. Non soltanto i tempi di ricollocazione attraverso l'outplacement si sono allungati molto, sì, ma quando queste ricollocazioni avvengono, avvengono o come manager atipico, Coco Pro, per fare un perché discorso. Ci sono i Coco Pro anche nei manager. No, sta esplodendo questa figura. Questa figura sta esplodendo. Sempre più imprese, soprattutto di dimensioni medio-piccole, ricorrono a questa figura atipica di manager perché è più flessibile, perché costa meno, ma è anche molto più precaria, questo va detto. E quando abbiamo a che fare con gente over 50, il precariato diventa un precariato a vita. Ecco, questo va detto. Ma costa meno, non riescono a spuntare questi manager dei compensi più alti, visto che appunto il lavoro è temporaneo? Assolutamente no. Noi siamo in un sistema industriale, un capitalismo che non è il capitalismo del temporary manager che entra in un'azienda con poteri forti e quindi spunta a condizioni economiche molto alte. Qui siamo in presenza di piccole e medie imprese con il piccolo imprenditore che non sempre legge correttamente questo apporto professionale e lo utilizza come un consulente e abbatte i prezzi. È interessante questo nella sua problematicità, perché insomma questo è il dato. Avete qualche prospettiva di miglioramento? Ma guardi, noi in questo momento stiamo facendo un grande sforzo insieme a Confindustria attraverso i nostri strumenti bilaterali. Noi per esempio abbiamo creato un sistema di sostegno al reddito ai nostri disoccupati. E attraverso il contratto noi diamo a questi colleghi un sostegno economico per massimo 24 mesi se sono più di cinquantenni, per un 1.500 euro al mese, in cui gli paghiamo l'outplacement e soprattutto ai giovani offriamo il bilancio delle competenze, uno strumento importante per monitorare lo stato di salute delle loro competenze professionali. In più formazione in dosi industriali, però se il mercato non tira, se le imprese sono sempre più chiuse in una logica di capitalismo familiare, è chiaro che non si va lontani. Vorrei chiudere dicendo solo una cosa, sì, che le imprese che stanno reagendo di più a questa crisi sono le aziende dove c'è la sintesi tra un ruolo imprenditoriale lungimirante e un ruolo manageriale coinvolto e partecipato. Ecco, questa è la ricetta che noi offriamo ai nostri imprenditori, al paese, se vogliamo uscire dalle secche. Oh, in bocca al lupo a tutti. Io non ho capito se i manager in Italia siano a questo punto 80.000 come dirigenti in servizio che risultava noi, o 150.000, inclusi quelli in pensione, 180.000. Forse questo, per questo che mi balla il dato. In bocca al lupo a tutti quelli in servizio. Chiaramente chi è in pensione, per fortuna, non vede toccato nulla della sua pensione. E torneremo a parlare con voi di questo. Come Vassori invece l'appuntamento è il 15 dicembre, perché voglio sapere quanto hanno guadagnato i top manager italiani, quello mi incuriosisce molto, tanto già capito che sarà una puntata in cui dovrò prendermi una tisana prima. Grazie quindi a Mario Vassori, a Lorenzo Guerriero e a Giorgio Ambrogioni. Non arriviamo subito alla borsa, così la smettete di chiedermela. Vi faccio sentire prima invece qualcosa sta emergendo dalla 20ª edizione di Job e Orienta, visto che parliamo di mercato del lavoro, non ci sono solo i titoli azionari nella vita, e a Verona oggi ha aperto la 20ª edizione di quello che dovrebbe essere un'occasione per incontrare l'offerta delle scuole con la domanda delle aziende. Claudio Gentili, direttore education di Confindustria, al microfono della nostra Piera Ceci. Questa 20ª edizione ha due grandi obiettivi. Il primo è celebrare in un modo singolare i 150 anni dell'Unità d'Italia, affrontando questa questione così importante non tanto dal versante dei nostri padri risorgimentali, Cavour, Garibaldi, eccetera, ma da cosa in questi 150 anni hanno fatto le imprese e la formazione per l'Unità d'Italia. E saranno premiate alcune imprese che dal 1850, ma molte anche prima del 1850, hanno contribuito a realizzare questa unità e questa identità italiana. Il secondo grande obiettivo è attrarre l'attenzione dei ragazzi, delle famiglie e degli insegnanti su un paradosso italiano. Le nostre imprese hanno raddoppiato negli ultimi 20 anni i loro tecnici, ogni 100 assunti ci sono 20 tecnici, ce n'erano 10, 12, 20 anni fa, quindi abbiamo raddoppiato i tecnici, abbiamo superato la Germania per numero di tecnici, cioè di esperti di tecnologia che le imprese assumono per vincere la competizione internazionale, e la scuola cosa fa? Dimezza i tecnici, quindi c'è uno strabismo italiano frutto di un mal orientamento. Così Claudio Gentili, direttore Education Confindustria. Attenzione, torneremo anche su questo tema, il tema è delicatissimo. Le imprese non trovano i tecnici e i ragazzi si laureano in scienze della comunicazione. C'è una follia anche nei genitori. Un appello ai genitori: non mandateli a scienze della comunicazione, producete dei disoccupati, gli istituti tecnici, fateli studiare. Alcuni di voi scrivono messaggi interessanti. Confermo, non si trovano disossatori di prosciutti in questo paese. Ride il nostro tecnico di regia. Non si trovano disossatori di prosciutti. Sapete quanto guadagna un disossatore di prosciutti? 4.000 euro lordi al mese. GR e poi la borsa che è chiusa invariata. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso la borsa con un po' di ritardo, ogni tanto può succedere, lo dico anche ai pasdaran dei mercati. Borsa invariata oggi a Milano, Parigi più 0,3, Francoforte più 0,8, l'America è chiusa, e Londra più 0,70, euro a quota 1,3377. Milano quindi anche oggi guadagna meno, resta infatti ferma rispetto alle borse europee. Perché ci sono alcuni titoli, tra cui in particolar modo Mediobanca, che appesantiscono l'indice, meno 2,5%. Come sempre la borsa la facciamo con i colleghi del Diocorio Sole 24 Ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Mediobanca. Sì, oggi è una giornata priva di particolari spunti, complice anche in tutta Europa l'assenza della bussola di Wall Street, che oggi ricordiamo è chiusa per la festività del giorno del ringraziamento, e in generale è stata una seduta ancora un po' debole per i titoli bancari, sotto pressione ovviamente per i riflessi della crisi irlandese. Proprio oggi il rischio sulle banche dell'Unione Europea, calcolato dall'andamento dei CDS, è salito ai massimi degli ultimi 5 mesi, quindi in generale il comparto ne ha risentito. In Europa proprio Mediobanca, che era uno dei titoli che aveva resistito alle recenti flessioni, oggi è stato venduto e ha perso appunto circa 2,5 punti percentuali, ma hanno perso terreno anche Intesa San Paolo, meno 1,15, e ad esempio UBI Banca meno 0,7%, mentre hanno invece resistito quei titoli che avevano perso di più di recente, come Unicredit e il Banco Popolare. Ancora, infatti tu già anticipavi alcuni temi, comunque l'automatica meno 2,1%, Autogrill meno 1,70%, attenzione perché questi titoli erano cresciuti nei giorni scorsi, Mediaset meno 1,27%, e ancora Terna meno 1,1%, Intesa meno 1,1%, Mediolanum meno 1,1%, Telecom meno 1%, Fondiaria Sai meno 0,80%, Ubibanca meno 0,6%, come Unipol, Impregilo e Generali, Buzzi 1,5 punto percentuale di calo con A2A. Fronte opposto, Geox più 3,3, Saipem più 2,5, Luxottica più 2,40, Prismian più 2,1, Bulgari più 2 come Azimut, Tenaris più 1,78 come Ansaldo STS, sempre forte per via della gara in Danimarca, vinta. Ansaldo dicevo più 1,75%, Fiat più 1,40, Exor più 1,30 come ST Microelectronics, Pirelli più 1%. Al di là di Mediobanca, e tra l'altro oggi lo ricordavamo in apertura, il rischio misurato con i CDS, con i premi polizza assicurativa contro il fallimento, chiamiamoli così, sulle banche europee ha raggiunto il livello più alto da 5 mesi. Ancora abbiamo anche titoli sottili oggi interessanti, perché dopo l'annuncio di De Benedetti ieri Management e Capitali ha guadagnato il 12,7% e non è ancora tutto forse? Sì, esattamente, il titolo ovviamente ha immediatamente reagito all'annuncio arrivato nella serata di ieri. Le azioni si stanno avvicinando al prezzo dell'OPA annunciata da Benedetti, che è di 0,215 euro. Oggi i titoli hanno chiuso a 0,2125, quindi sì, probabilmente c'è ancora spazio per un apprezzamento del titolo, che naturalmente adesso ci si interroga su quello che sarà il futuro, perché nell'annuncio dell'OPA De Benedetti ha precisato che se supererà il 95% del capitale, il destino di Management Capitale sarà quello del delisting, mentre se invece supererà il 90% ma non il 95%, ripristinerà il flottante. Quindi questo è ancora da stabilire, ma naturalmente in questo momento l'annuncio dell'OPA mette le ali al titolo. Torniamo ai titoli più spessi, visto che gli altri li chiamiamo sottili. L'Automatica e Telecom, ci chiedono molti ascoltatori come mai. Sì, in questa giornata, che come ricordavamo è priva di particolari spunti, sono molti i movimenti. No, ricordalo tecnici. Ancora, perché sennò mi stanno massacrando, che ho dato la borsa non alle 17.40 ma alle 18.05, la giornata non aveva molti spunti, dillo tu che a me non credono. Non ci perdiamo grandi cose, ecco. In questo caso sì, sono molte ricoperture e spostamenti tecnici, gli operatori segnalano oggi che sono stati colpiti in particolare quei titoli con un indebitamento importante, con piani di ristrutturazione e riscadenzamento, perché naturalmente con le tensioni attuali andare sul mercato del debito è più complicato del solito. In particolare l'Automatica ha perso il 2,17% e proprio oggi fonti di mercato hanno rivelato che la società sta preparando una nuova emissione di bond da 500 milioni. Naturalmente il discorso vale anche per Telecom, in cui la questione dell'indebitamento è sempre centrale. Oggi il titolo ha perso lo 0,96%, ma appunto non ci sono temi di particolare rilevanza societaria. Ancora Prysmian, abbiamo avuto il numero uno due giorni fa, ospite Battista, che a raccontarci l'offerta sulla olandese Draca. Poi è arrivata invece una mezza conferma di un interesse cinese. A che punto sono? Perché oggi il titolo guadagna il 2,1%. Sì, il titolo ha proseguito nel recupero avviato ieri dopo, ricordiamo, lo scivolone proprio seguito all'annuncio dell'OPA sull'olandese Draca. Draca ha annunciato di recente che valuterà anche l'offerta cinese, anche se secondo fonti di stampa olandesi crescono i dubbi sulla effettiva esistenza di questa offerta, che ricordiamo è stata annunciata ed è migliorativa rispetto a quella di Prysmian, ma non è stata ancora formalizzata, a differenza di quella della società italiana. Naturalmente il mercato, dopo l'annuncio di un'offerta e quindi in vista dell'esborso di capitale, penalizza il titolo. Forse adesso stanno iniziando a entrare in gioco anche delle riflessioni sulla validità strategica e industriale dell'operazione. In ogni caso i dubbi sono ancora alti, anche se appunto l'offerta cinese sembra un po' meno solida di quanto già non sembrasse ieri. Grazie a Paolo Paranetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Noi restiamo in tema di mercati per parlare di speculatori, però prima con una piccola chiosa sul mercato del lavoro. Dopo l'annuncio su quanto guadagna un disossatore di prosciutti che non si trova in questo paese, non vi dico i commenti, però vi leggo un messaggio che è arrivato poco fa. Faccio il falegname a Cantù, mi sono specializzato in macchina controllo numerico punto a punto e guadagno 3.000 euro netti al mese. I miei amici sono tutti laureati / disoccupati, ma se gli chiedo di venire a fare domanda dove lavoro mi dicono a fare il falegname, no grazie. Così la prendiamo e così la diamo. Allora, oggi sul Sole 24 Ore, restiamo invece in tema di finanza, trovate un articolo in prima pagina a firma di Luigi Zingales che dice, il titolo recita: speculatori, vil razza dannata. E poi tra parentesi, ma utile. Allora, colleghiamoci con il professor Zingales, che oltre che fare l'editorialista al Sole 24 Ore insegna imprese e finanze all'Università di Chicago. Buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo il traffico adesso, ma in una battuta, poi le lascio parlare. Ma cos'è, è impazzito? Vuole difendere gli speculatori, quelli che stanno, diciamo, mettendo a rischio la tenuta dell'euro? Beh, gli speculatori hanno una funzione molto positiva, è come quella del termometro. Se il termometro segna la febbre, non è colpa del termometro, è colpa dell'organismo malato.

con il loro imponente apparato di alberghi, feste e ricevimenti. Insomma, la pensa in maniera un po' diversa da lei, Zingaris, ma mettiamola così, fermo restando che ci può essere il vero nel ricordare che non è che questa sia una setta massonica che si riunisce, come scrive lei, in circoli segreti, nei grattacieli di Manhattan e decide i destini mondiali. Io non ho mai creduto alla teoria, appunto, dei circoli segreti, anche se ogni tanto qua ci scrivono su questo. Però i modi che usa la speculazione per attaccare l'animale malato, lei dice non è colpa della speculazione se l'animale è malato, e la seguo, perché la Grecia ha truccato lei i conti, si è fatta aiutare da qualche banca d'affari, da una banca d'affari americana, però ha truccato lei i conti, l'Irlanda ha viaggiato lei con prestiti interbancari da 10 volte il PIL, quindi in totale mattone e champagne per 10 anni, e non è colpa della speculazione. Però i meccanismi che usano queste iene, i denti di queste iene possono peggiorare la malattia del malato, perché quando poi tu hai strumenti derivati a leva che amplificano la massa di vendita, è chiaro che non solo ti limiti a aggredire, ma peggiori anche le condizioni. Questo possiamo dirlo? Per cui non è un termometro neutro. Assolutamente, la possibilità esiste. E io nel titolo la sollevo questa possibilità, però guardiamo ai fatti. Se effettivamente questa possibilità fosse realtà nel mondo d'oggi, dovremmo vedere una valanga di imprese sane o di stati sani che viene colpita ingiustamente dalla speculazione. Io questo devo ancora vederlo, mi portino le prove di un caso in cui c'è un'azienda sana che viene distrutta dalla speculazione, o di uno Stato che è solvente che viene messo in ginocchio dalla speculazione. Lehman, la speculazione è arrivata troppo tardi, Lehman aveva dei trucchi per ridurre le liability nel bilancio che l'hanno fatta sopravvivere molto al di là di quello che avrebbe dovuto sopravvivere. Quindi la possibilità teorica esiste, in pratica finora il problema della speculazione è che arriva troppo tardi, non che arriva troppo presto. Allora, se ho ben capito, ve le dice, non c'è speculazione che abbia mai attaccato un corpo sano, per usare l'esempio che fa lei delle iene, e va bene. Le iene vanno dove il corpo è malato, l'animale è ferito, è moribondo, però se tanto mi dà tanto, allora lei mi potrebbe anche dire che non servirebbero regole per limitare la speculazione, cioè che tutto quello di cui abbiamo discusso in questi 2 anni era fuffa. No, attenzione, la speculazione a ribasso è una parte molto limitata di quella assunzione del rischio che la gente prende. La maggior parte della crisi che noi abbiamo avuto non è perché la gente ha speculato a ribasso, è perché la gente ha speculato al rialzo. La gente ha scommesso sulla bolla immobiliare, si è indebitata e ha preso grossi rischi scommettendo al rialzo. Perché? Perché tutto il mondo è spostato nel difendere chi va al rialzo. La politica americana sosteneva i prezzi delle case, il congresso sia democratico che repubblicano difendeva l'aumento dei prezzi delle case, e quindi la speculazione ha giocato su questo. Per questo io distingo tra la speculazione a rialzo e la speculazione a ribasso. La speculazione a rialzo ha forti appoggi politici che devono essere eliminati. La speculazione a ribasso è esattamente come le iene, nessuno le vuole toccare perché politicamente è estremamente pericolosa. No, su questo lei dice una cosa molto, molto corretta, che poche volte viene messa in evidenza. Attenzione, che la speculazione che ha creato il disastro che è esploso 2 anni fa era una speculazione in cui tu prestavi soldi per comprare case, high tech, automobili, tutti andavano al rialzo, vivevano sopra le loro possibilità, e quella faceva comodo anche alla politica, dai, perché i consumatori più ricchi apparentemente sono elettori più contenti. Altra cosa è la speculazione che si accanisce, come posso aggiungere io, come le iene, su chi è già in difficoltà. Una battuta però per chiudere, Zingale, scrive un ascoltatore, lei ha fatto l'esempio con la Conte voleva salvare la Troia, gli speculatori invece la vogliono distruggere, su questo siamo d'accordo? No, gli speculatori non vogliono distruggere, gli speculatori hanno un ritorno da mettere in evidenza la realtà. La differenza è che nella maggior parte delle situazioni del mondo i laoconte vengono solo puniti, nel caso degli speculatori hanno un ritorno da essere laoconte. siccome la maggior parte delle volte uno ha i figli divorati, mi sembra che questa non sia una cosa di cui vergognarsi. Beh, mi è piaciuto, grazie anche perché gli stimoli erano tanti, grazie a Luigi Zingales che insegna appunto Impresa e Finanza all'Università di Chicago, nonché editorialista del Sole 24 Ore, il suo articolo oggi in prima pagina su Sole 24 Ore. Vabbè, abbiamo, certo che distinguere tra lupi e iene sembra quasi un atto di etologia, però insomma le differenze ci sono, delle volte attenzione anche ai capri espiatori, la speculazione. La Grecia e l'Irlanda sono causa dei loro mali, questo è indubbio, la speculazione non c'entra niente, poi se uno ci marcia sopra, vabbè. Ma non diciamo che è colpa della speculazione, non diciamo che l'euro è debole e invece diciamo che cosa farà Giuseppe Cruciani tra pochi minuti nella Zanzara. Parlerò di tetti perché... Ho preso paura, tetti, perché tetti. Le vocali sono parlerò importanti. Parlerò di tetti, non di tette, di tetti. Di tetti. Tetti. Perché c'è una fissazione dei politici, secondo me, ridicola a salire sopra i tetti, questa volta delle università, così per montare sulla protesta poi di chi, non lo so, di studenti o pseudotali contro la riforma Gelmini. Allora, di tetti si parlerà e si parlerà, si parlerà, non avevo dubbi che saresti, non avevo dubbi che avresti abboccato, di tetti si parlerà tra pochi minuti alla Zanzara. Da Sebastiano Barisoni invece un augurio di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.